Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccoci, siamo pronti in regia, la parte tecnica Peter Bescapè, in redazione Laura Vanossi. Benvenuti a Essere e Benessere. Subito i titoli del nostro sommario. Psoriasi, dalla diagnosi alla terapia. L'influenza ha i giorni contati? Parliamone. Prenditi cura dei reni del tuo bambino. Imbarazzante, invalidante, discriminante. Tre aggettivi con cui ancora oggi pazienti che ne soffrono la descrivono, e sono tanti. Parliamo di psoriasi, è una malattia infiammatoria cronica della pelle di natura non infettiva che si manifesta proprio con la comparsa di queste chiazze rossastre sulla pelle. Sappiamo che può insorgere ad ogni età, interessare tutte le parti del corpo, ma le zone più colpite sono il cuoio capelluto, le ginocchia, i gomiti, le mani e i piedi. Oggi faremo il punto sulle terapie, ma oggi vorremmo anche dare spazio ad una malattia reumatica infiammatoria cronica molto frequente nei soggetti affetti da psoriasi, sia lieve che grave, l'artrite psoriasica. Tanti gli ospiti che ci raggiungeranno nel corso della puntata. Vi saluto perché la conoscete già, Mara Maccarone. Buongiorno. No, buongiorno a tutti. Presidente di ADIPSO, l'Associazione per la Difesa degli Psoriasici, insieme a noi Mara Maccarone oggi metterà a disposizione la sua esperienza di persona affetta da psoriasi, ma è anche qui per parlarci delle ultime conquiste dell'associazione, tutte proprio indirizzate a migliorare la qualità di vita del paziente. Quindi, Mara, ad abbattere i pregiudizi che nonostante tutto ancora ci sono, permangono. Mara. Esatto. Sì, diciamo che quest'anno abbiamo lanciato l'anno della consapevolezza sulla psoriasi, perché ancora c'è tanto da fare, faremo varie comunicazioni, vari progetti, abbiamo in progetto di fare un incontro con tutti quanti, veramente chiunque voglia venire è benvenuto, per spiegare che cosa ha fatto l'associazione in questi 20 anni, perché 20 anni facciamo. Festeggiamo i nostri 20 anni di lavoro e di volontariato, che e non è una cosa... Non sono, ecco, sono 20 anni, in 20 anni sono cambiate tante cose, c'è stato tanto impegno. Sì, tanto impegno, e sono cambiati anche i rapporti con voi, nel senso con voi giornalisti, non con voi di Radio 24, che siete sempre molto attenti. Sono cambiati i rapporti con i media, veramente, perché adesso se ne parla un po' di più. Bene, certo, noi da fanatici diciamo sempre, siccome siamo nati abbiamo diritto e vogliamo sempre di più, però insomma è cambiato tantissimo. Quando mi sono ammalata io 40 anni fa neppure si sapeva che cosa fosse la psoriasi, la parola stessa, quindi insomma oggi però il paziente ancora ha tante difficoltà, ancora non ha informazioni, ancora non sa certe cose, ancora non sa a chi rivolgersi, e quindi c'è tanto da fare ancora, ecco perché quest'anno vogliamo proprio dedicarlo alla comunicazione continua, e questo è il primo incontro proprio ufficiale. Vi ringrazio molto, quindi ci porterà bene. Guarda Mara, sì, perché portiamo bene. In linea con noi abbiamo il professor Chimenti, che è tornato a trovarci. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno anche a Mara. Direttore della clinica dermatologica dell'Università degli Studi Tor Vergata. Professore, con lei parleremo di terapie ma anche di stili di vita, perché ormai è provato, gli studi lo confermano, ci sono dei fattori di rischio che possono slatentizzare la malattia oppure riacutizzarla. Diciamone alcuni. Certo, per esempio il sovrappeso, il fumo, alcune infezioni, farmaci, ma anche stress, per esempio traumi fisici. Alcune volte anche addirittura i tatuaggi possono fare da stimolo e fare riaccendere una psoriasi. 800 24 0024, questo è il nostro numero verde a disposizione, il numero per inviare i messaggi 349 238 6666. Qui in studio con me Alessandro Pellizzari, ogni mese viene a trovarci nel numero in edicola. Ciao Alessandro. Ciao Nicoletta. Nel numero in edicola di Star Bene parlate anche voi di psoriasi. Sì, perché ci sono tante novità, e c'è stato un documento molto importante che è stato sottoscritto dai dermatologi italiani, che ha fatto un po' il punto della situazione. Noi, quando i medici si mettono tutti d'accordo siamo su certe contenti. Cose, siamo contenti, perché c'è più chiarezza anche per i pazienti, quindi per le nostre lettrici, e quindi abbiamo dedicato la rubrica più importante, dedicato a lei, di Star Bene, di questo numero in edicola, proprio alle novità sulla psoriasi. Vedi Mara, festeggiamo questo anno della consapevolezza, compie 20 anni la Dipso, anche Star Bene parla di psoriasi, insomma stiamo facendo un cammino insieme. Naturalmente invito i nostri amici da casa a camminare con noi in questa trasmissione per conoscere meglio, più da vicino, questa malattia. Dobbiamo imparare a conoscerla, anche le persone che non ne sono affette, per non guardare la persona con la psoriasi come una persona diversa, una persona che può in qualche modo attaccarci, come si dice, alla malattia. Le persone che soffrono di psoriasi vanno aiutate, supportate, ci sono sicuramente dei modi per affrontare la malattia e vivere una vita di qualità. Continueremo a parlarne, soprattutto prendendo spunto dalle vostre telefonate, dalle vostre storie, dalle vostre richieste. Il professor Chimenti rimane a nostra disposizione, così come Mara Maccarone. Alessandro Pellizzari è qua in studio con me. 800 24 00 24, i messaggi 349 238 6666. Una mela al giorno. E nell'attesa delle vostre telefonate voltiamo pagina, torniamo a parlare di influenza, perché ormai il picco dovrebbe essere superato e forse possiamo, dico forse, sentirci più tranquilli. Ma chiedo conferma al nostro influenzologo, il professor Fabrizio Pregliasco, virologo del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università di Milano. Professore, eccoci, buongiorno. Qua. Siamo in fondo ai nostri appuntamenti, perché di fatto è vero, come naturale che sia, con il miglioramento della temperatura, anche la stagione influenzale di quest'anno ormai sta finendo. Pensiamo che entro una settimana, massimo due, avremo il ritorno ai livelli basali, come diciamo, cioè all'azzeramento quasi dei casi di infezione respiratoria, che peraltro permangono, perché comunque sia la vera influenza è quella che dà il contributo maggiore durante l'inverno, ma forme respiratorie ci sono un po' tutto l'anno, dovute ai tantissimi virus che in questa fase stanno, direi, dando l'ultimo colpo di coda, grazie alla tipica, peraltro usuale, quindi niente di emergente o di particolare situazione di cambiamenti climatici e quindi di sbalzi termici che favoriscono il lavoro sporco di questi virus e che quindi stanno dando una serie di forme simili influenzali abbastanza frequenti e comunque fastidiose. Qualche indicazione per gli ultimi colpi di coda, professor Pregliasco? Come sempre un'attenzione agli sbalzi termici, perché è lì dove nell'arco della giornata possiamo avere l'infezione e come sempre il buon senso non rimane molto da dire in questi casi, e un'attenzione a un'automedicazione che deve essere responsabile, perché queste problematiche comunque non vanno sottovalutate e in particolare già cominciare a considerare le caratteristiche di queste forme respiratorie, perché cominciano a mescolarsi o stanno per mescolarsi a quelle forme anche allergiche, per cui se ci sono starnuti, naso che cola con liquido trasparente, insomma quelle cose un po' più, starnuti a raffica, che sono il classico di forme che possono essere in questa fase mescolate alle infezioni respiratorie, vanno subito valutate, perché purtroppo ogni anno agli allergici ormai professionisti che conoscono il periodo a rischio e che sanno, per fortuna anche ormai, gestire al meglio o tamponare gli effetti di queste forme allergiche, arrivano new entry, perché questa è un po' la caratteristica di questi tempi, e quindi attenzione ad affrontarli sin da subito, perché sennò un approccio sbagliato nelle prime fasi di un'allergia peggiora la vita successivamente. Professor Pregliasco, anche senza l'influenza noi ci sentiremo, la inviteremo a tornare a trovarci. Assolutamente. Grazie, buona giornata. Buona giornata. Pronto soccorso. Eccoci di nuovo a parlare del tema del giorno, parliamo di psoriasi. 800 24 00 24. Professor Chimenti, la psoriasi non è contagiosa, insomma, esatto, non si attacca, per dirla proprio in soldoni. La ragione è spiegata, è semplice, perché è una malattia autoimmune di origine genetica, o meglio dovrei dire poligenica, no? Perché è dovuta al coinvolgimento di più geni. Esatto. Noi abbiamo insieme al professor Novelli, che è il direttore della, oltre che essere preside della nostra facoltà, è appunto il direttore della genetica dell'Università di Tor Vergata di Roma, sì, e abbiamo fatto appunto vari studi in cui abbiamo dimostrato che soprattutto in una popolazione laziale sono presenti alcuni geni, e quindi soggetti che hanno che esprimono questi geni nel loro sangue, diciamo, sì, hanno più possibilità di sviluppare la psoriasi rispetto ad altre persone che non esprimono questi geni. E quindi è chiaro che c'è un coinvolgimento genetico. Su questo coinvolgimento genetico poi si possono instaurare appunto tutte quelle concause a cui facevo riferimento prima, e che quindi possono dare una disseminazione, una estensione più o meno grave della malattia. Mara, secondo te è passato il concetto che non si rischi a fare il bagno in piscina insieme ad una persona che ha delle chiazze di psoriasi, che i bambini possono passare la merenda al compagnetto che ha la psoriasi? Secondo te, a forza di battere, è entrato questo concetto, oppure ci sono ancora persone che fanno un passo indietro? Perché comunque si vede ancora, non c'è niente da fare. Vedere un bambino anche che entra in piscina con una psoriasi abbastanza fa molta impressione, nessuno chiede, nessuno si avvicina e non è ancora cambiato. Cioè questa discriminazione, come dicevi tu, bisogna aiutarci, ma non vogliamo l'aiuto materiale, vogliamo l'aiuto della conoscenza, di informarsi, cioè per la discriminazione, soprattutto per quanto riguarda i giovani, anche i vecchi per carità, certo, anche quelli meno giovani, assolutamente, però diciamo che noi purtroppo la vita l'abbiamo già fatta, nel senso io insomma sono grande e non vi dico quanti anni ho perché la voce non è da vecchia. No, teniamoci, ognuno si tiene un po' la sua età. Esatto. Però effettivamente devo dire che ancora non siamo proprio, ecco perché l'anno della consapevolezza sulla psoriasi. Ma posso salutare il professor Chimenti io? Ma certo, io pensavo che l'avessi già fatto, lui ti ha salutato. Ma non risponde, professore, buongiorno e bentornato. Grazie, ben trovata. Io già l'ho salutata, Mara. Sì, ma non l'ho sentito perché mi hanno caduta la linea. Ma Mara era presa per parlare dell'anno della consapevolezza e solo ora si è ricordata del professor Chimenti. Invece io ce l'ho ben presente perché, professore, io vorrei parlare di quella forme un po' lievi di psoriasi. Perché all'inizio, nelle forme lievi, la psoriasi si manifesta con un po' di desquamazione, non so, sui gomiti, le ginocchia, il cuoio capelluto, ad esempio in questa sede viene scambiato con la forfora, a volte colpisce le mani, i piedi, piccole vescicole, i taglietti, e poi non risparmia le unghie che o diventano fragili o si inspessiscono e cambiano colore, e magari noi pensiamo a una carenza di alimentare oppure diciamo ma potrebbe essere un fungo. Professore, quindi io inviterei, se lei è d'accordo, i nostri ascoltatori a mettersi in contatto con noi e a descriverci il loro problema, quindi se qualcosa sul vostro sui gomiti, sulle mani, palmi, piedi, in altre zone non vi torna, chiamateci subito all'824 0024. Ma professor Chimenti, io avrei subito bisogno di lei, ci dia delle certo indicazioni per orientarci. Partiamo dall'alto, dalla testa. Dunque, lei all'inizio di trasmissione non ha quantificato il numero di pazienti in Italia affetti da psoriasi, sono moltissimi. Ora il problema è che in molti casi loro addirittura non sanno di averla, perché come stava dicendo lei giustamente la psoriasi si può manifestare ad esempio con dei taglietti sulla lingua che il paziente la persona non sì ha mai fatto caso, oppure delle piccole rugosità a livello dei gomiti, oppure con delle puntine a livello delle unghie. Ora sì, è chiaro che se le manifestazioni sono soltanto queste, non danno fastidio. Uno non ci pensa, il paziente certo non ci pensa, e quindi però questo potrebbe essere una spia, perché non si sa mai, un domani potrebbe la situazione potrebbe cambiare, come dicevo prima, in seguito a qualche evento traumatizzante. Ora, in questi casi è buona norma idratare molto bene la pelle, oppure utilizzare, perché queste forme iniziali, se vengono trattate con una terapia anche cosmetica, se vogliamo, con queste creme a base di vitamina E per esempio, possono veramente avere una pelle molto liscia e molto delicata, perché di solito chi ha la psoriasi ha la pelle secca, quindi in questi casi bisogna idratare molto bene la pelle. Ecco, professore, volevo proprio fare una domanda terra terra, ma credo importante su due punti di vista. La detersione, cioè se deve avere delle caratteristiche particolari il sapone o il prodotto che usiamo, sì, e poi anche sul camouflage, perché noi abbiamo molte elettrici, le elettrici di Starbene, credo vogliano anche in qualche modo, se è possibile, nascondere dove è possibile queste, sì, queste chiazze, dunque, queste lesioni? La detersione deve essere fatta con sostanze, non esistono oggi tantissimi saponi creati apposta per detergere la cute psoriatica, ce ne sono tantissimi, e quindi io mi rivolgerei a uno di questi. E poi col camouflage si possono ottenere dei miglioramenti incredibili. Noi per esempio io ho proprio aperto un centro alcuni anni fa al Sant'Eugenio di Roma, dove si fa proprio il camouflage, però prima di arrivare al camouflage io proverei a curare la malattia. Certo. Oggi siamo in grado di curare la psoriasi nel 95%, 97% dei pazienti. Esiste tuttavia una forma, un piccolo gruppo, per fortuna molto esiguo, di pazienti che non risponde a niente, però in generale la psoriasi nella maggior parte dei casi è curabile, non guaribile, è curabile. Un messaggio per Mara, ce lo manda Alessandra, che ha subito colto l'invito dell'anno della consapevolezza e vuole dare il suo contributo. Era fidanzata con un ragazzo che aveva la psoriasi, ma non ho avuto la psoriasi anch'io. Se può servire, Alessandra ci dà il suo contributo, proprio per sottolineare che non è una malattia contagiosa. E noi continuiamo a ripeterlo. Alessandro Pellizzari vuole dare il suo contributo? Sì, no, volevo chiedere alla dottoressa, che è molto simpatica e anche molto chiara. Grazie. Se abbiamo dei bambini che vanno a scuola e hanno la psoriasi, che consigli dare ai genitori? Devono interfacciarsi con la maestra? Qual è la cosa più importante da fare per non crearne degli esclusi in qualche modo? Esatto, la cosa più importante è intanto che i genitori parlino con la maestra, che la maestra sia in grado di capire e comunicare ai bambini in modo semplice, parlo delle scuole elementari e poi delle medie inferiori, e cercare di spiegare che non è una malattia contagiosa, che possono giocare con questo bambino, perché di solito sono emarginati. Noi abbiamo avuto l'anno scorso, e il professore lo sa bene, tante mamme disperate, la giornata mondiale della psoriasi, sono venute in piazza proprio e non sapevano cosa fare. Quindi insomma questo è un aiuto, ma diciamo che anche la comunicazione che date voi serve moltissimo. Infatti io lo leggo star bene, anche perché è sempre presente, e la ringrazio veramente per l'attenzione che ci dedica. E quindi attenzione, cercare di spiegare ai bambini in modo semplice. Io avevo chiesto anche a suo tempo di fare un intervento con il professor Chimenti e altri medici dermatologi nelle scuole per spiegare. Ecco, questa malattia sarebbe una bella iniziativa, professor Chimenti, no? Esatto, però non me l'hanno permesso ancora. Va bene, ma vedrai, Mara, che passetto per passetto la Dipso ha fatto veramente tanta strada, arriverà anche nelle scuole. Invece io vado a Latina perché c'è Paola che ci aspetta. Buongiorno Paola. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione, è molto interessante. Grazie. Allora, Paola, io ho un problema che mi porto dietro da 15 anni. Sì. È un problema di psoriasi che mi è diciamo venuto al palmo delle mani, proprio al cuore del palmo delle mani. Sì. E io mi sono rivolta all'IBI, a Roma, quindi ho avuto parecchie visite in questo campo, ho fatto parecchie visite. Come sta andando, Paola? Niente, guardi, sta andando che io ho 15 anni che me lo porto dietro, adesso mi si è trasferito alle unghie, quindi unghiacce brutte, imbarazzanti. Sì, perché tutte le malattie della pelle, ma soprattutto anche quando interessano zone come le mani, il viso, sono così esposte che, ne abbiamo parlato tante volte con Mara, anche col professor Chimenti, creano molto disagio, perché gli occhi della gente sembrano sempre puntati lì. Allora, professor Chimenti, possiamo dare un'indicazione a Paola? Questa psoriasi sembra cammini, ha interessato anche le unghie. Questo è un aspetto molto importante da non sottovalutare, certo, vero professore? Certo, queste forme di psoriasi potrebbero successivamente coinvolgere anche le articolazioni. Adesso noi stiamo facendo uno studio per vedere se la psoriasi ungueale, è uno studio internazionale, se la psoriasi ungueale è in qualche modo collegata alla psoriasi appunto artropatica. Ma questo è un altro discorso. È chiaro che, come diceva lei, come diceva anche Mara, la psoriasi che si localizza al volto, alle mani o addirittura ai genitali crea dei problemi di vita relazionale importantissimi, soprattutto in soggetti giovani, e quindi in questi casi il mio consiglio è quello di trattare questa malattia come una forma grave, e quindi di ricorrere a dei farmaci tradizionali, o, e se, qualora questi non funzionassero, ai farmaci biologici, ma insomma in generale con i, anche con i farmaci tradizionali risponde bene. Eccoci, siamo tornati insieme e abbiamo subito Guido che ci chiama da Verona. Buongiorno Guido. Buongiorno a tutti voi. Ci racconti Guido? Io stavo raccontando anche alla vostra collega che la psoriasi per me è scoppiata all'età di 20-22 anni con il primo mutuo che sono andato a firmare, quindi effettivamente dovuto a stress. Sì. Subito si pensava a una malattia cutanea, tipo qualche allergia, che poi mi sono reso conto invece che era psoriasi, anche perché in famiglia papà e nonno ne erano affetti. Dopo le prime sofferenze, perché effettivamente all'inizio è una sofferenza, le mani che si screpolano, le chiasse che diventano sempre più evidenti, ho imparato a conviverci e vorrei interpretare ciò che ha detto una signora prima con voi, che effettivamente è la mala informazione che tende diversa dagli altri. Nel momento in cui poi vai a spiegare perché la conosci, si tranquillizzano un po' tutti. Io la sto tenendo sotto controllo, sono forse un fortunato, la tengo sotto controllo sotto il cuoio capelluto in maniera tale che abbia quel minimo di sfogo. Sì. E sto vivendo la mia vita abbastanza tranquillamente. Bene, comunque, vede, anche Guido ha acceso il mutuo e è scoppiata la psoriasi. Professor Chimenti, lo stress, lei proprio l'ha messo nell'elenco dei fattori scatenanti. In linea con noi abbiamo un amico di Essere Benessere, lo conosciamo bene, il nostro ospite del venerdì, che è qui per raccontarci anche la sua storia, la sua esperienza, il dottor Franco Confalonieri. Buongiorno, dottor Confalonieri. Buongiorno, io mi scuso, sono in autostrada, mi sentirete malissimo, non è colpa mia, insomma. Pronto? Sì, noi la sentiamo abbastanza bene, direi. Bene. Allora, sì. Io sono molto contenta che lei abbia accettato il mio invito a partecipare, perché proprio parlando di psoriasi, fuori onda in un venerdì dopo una trasmissione, lei mi ha raccontato... Sì, che anch'io sono affetto da questa malattia da parecchio tempo ormai, una localizzazione forse un po' particolare, la localizzazione ombelicale, poi magari gli esperti di oggi potranno chiarire quanto è frequente, quanto è significativo e quanto è importante questa localizzazione. Direi che però nel mio caso ha una funzione di controllo e di gestione dello stress estremamente positiva, cioè io mi accorgo alla fine che questa somatizzazione, se così possiamo dire, attraverso la psoriasi a livello ombelicale delle mie difficoltà e dei miei stress, mi aiuta a gestirlo, a superarlo e a viverlo quotidianamente. Quindi ecco, se questa testimonianza può essere importante, innanzitutto per dire cerchiamo ciascuno nel suo di vivercela bene, perché fa un po' parte di noi anche questa patologia e coinvolge tantissimi di noi, e dall'altro lato proprio testimoniare il fatto che può essere estremamente utile nella gestione delle difficoltà e dello stress, perché da un certo punto di vista ci serve proprio a somatizzarlo e quindi a convivere con questa dimensione della nostra vita. Professor, dottor Confalonieri, io la ringrazio per questa sua testimonianza doppiamente, un po' perché ce l'ha raccontata e quindi ce l'ha fatta vedere sotto un'altra luce, cioè è una sorta di campanello d'allarme e lei la tiene sotto controllo, una avvisaglia che sta tirando troppo la corda. L'altro fa un favore anche a Mara Maccarone, che tante volte mi ha detto che non riescono a trovare testimonial, personaggi famosi, e ci saranno sicuramente, che siano disposti a raccontare la convivenza con la psoriasi. Mara. Ringrazio il dottor Confalonieri, intanto benvenuto fra noi, non sapevo della sua cosa. Certo, è poca, ha ragione, vivere con una chiazza come la sua è facilissimo, ma è difficilissimo vivere con una artrite psoriasica deformante come la mia e con una psoriasi in tutto il corpo. Quindi, a parte la premessa, è vero, noi stiamo cercando di dare più informazioni possibili per stare tranquilli e per curarsi. Abbiamo fatto tante iniziative per i giovani e adesso è vero, noi abbiamo chiesto di venire a partecipare il 24 di marzo, se posso sì. dire, ad un incontro molto particolare, a parte che c'è una cosa molto simpatica, i dermatologi di Tor Vergata in prima fila il professor Chimenti sì. rappresenteranno una commedia sì. Di un autore francese che si chiama Cunot, esercizi di stile. Tutti i dermatologi, nessuno è attore, a parte il professor Chimenti, che ultimamente va bene. Lo professor Chimenti, lei ormai gioca, ormai... Gioco su due tavoli, sì. Oh mamma mia, ma non finite mai di stupirci, quindi un appuntamento importante il 24 a teatro. Sì, all'Auditorium di Via della Conciliazione a Roma. Ci sarà questa performance, speriamo di avere un discreto successo. Noi ci stiamo impegnando da 6 mesi, tutti i lunedì, un anno. Sera ci vediamo e proviamo e vedremo un po' quello che riusciremo a fare. Posso dire una cosa? Sì. Volevo dire quello che diceva il dottor Confalonieri, che dicevi tu, veramente vero. Noi non siamo riusciti a trovare un testimonial famoso per quella serata. Non deve fare niente, non gli attacchiamo la psoriasi, come dicevi tu, non facciamo niente, facciamo una bella cosa. E ci saranno certamente i responsabili delle strutture che si interessano di salute, il certo. sindaco, l'assessore, insomma ci sarà un po' di gente, però non siamo riusciti a trovare un testimone. Questa è una cosa molto grave, ma come possiamo noi continuare a dare la comunicazione se poi tutti ci dite ci serve un testimonial? Lo facciamo da soli. Noi, infatti, il dottor Confalonieri, che ha molto seguito ed è molto famoso per le sue puntate del venerdì, è diventato un po' il nostro testimonial, almeno ha rotto il ghiaccio. Dottor Confalonieri, grazie, un benedetto. Grazie, speriamo di essere stati utili, buon lavoro a tutti. Buon lavoro anche a lei. Grazie. Allora abbiamo Christian che ci chiama da Pisa, buongiorno. Buongiorno. Che succede, Christian? No, e volevo chiedere al dottor Chimenti, praticamente una persona, per dire, che non ha mai avuto la forfora, e magari neanche sensazioni di prurito, poi tutto un tratto praticamente vede, diciamo, delle cosette bianche simili appunto alla forfora, e volevo sapere se appunto potrebbe essere un inizio di psoriasi. Grazie, Christian. Professor Chimenti, forfora o psoriasi? In molti casi è molto difficile fare una diagnosi differenziale, soprattutto in assenza di altri segni clinici di psoriasi in altre parti del corpo. Comunque, siccome l'approccio terapeutico, la terapia in molti casi è lo stesso, oggi ci sono delle sostanze, dei farmaci che sono in grado di risolvere o comunque di tenere sotto controllo molte di queste forme. Andiamo a Liana che ci chiama da Brescia. Buongiorno Liana. Buongiorno a voi, complimenti, sono da incorniciare. Grazie. Allora, la mia domanda sarebbe, in due parole, per me ci sono tutte le spie di cui avete parlato prima, compreso sulle mani, sulla testa, ai piedi, tutte le spie, no? Compreso il dolore agli arti, alle ginocchia, ma dolore di quelli che non riesci neanche a muovere le mani. Ecco, in poche parole, ci sarebbe anche nelle parti intime, come domanda, può essere una psoriasi, escludendo, perché ho fatto tutte le analisi che riguarda, diciamo, ginecologiche, escludendo tutto, il problema c'è lo stesso. In più mi hanno dato come medicina a base di ossatomide e una crema a mometasone furoato, no? Ecco, però siccome mi ero dimenticata un giorno di diciamo, si è tutto un po' ripianato, ma mi sono dimenticata un giorno di fare il trattamento ed è riapparso tutto da capo. Adesso la mia domanda è: si può fare un'analisi che vada a mirare, diciamo, direttamente a capire se è una psoriasi, un'artrite psoriasica, ecco, perché... Liana quindi ci chiede, allora, gli esami che mi possono dare con certezza una diagnosi. Professor Chimenti. La risposta è sì, ma comunque volevo suggerire alla signora Liana di, innanzitutto grazie per i complimenti, ma di consultare un dermatologo. A Brescia ce ne sono di bravi, perché non segue anche un dermatologo? Comunque esistono degli esami sia di sangue che ecografici che sono in grado di poter fare una diagnosi di artrite psoriasica o psoriasi artropatica, come la definiamo noi dermatologi, rispetto a una, diciamo, altre forme di artriti. E quindi la risposta è sì, le faccia. Bisogna fare questi esami. Io vorrei aprire una parentesi, come abbiamo anticipato, sull'artrite psoriasica. In linea con noi abbiamo il professor Antonio Spadaro, associato di reumatologia alla Sapienza Università di Roma. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Professore, allora, l'artrite psoriasica è una complicanza, un rischio che può venire sia per i pazienti che soffrono di psoriasi lieve che grave. Quali sono i sintomi iniziali? Che cosa si deve fare? Quali sono i controlli? Ma sicuramente è sicuramente una condizione importante la valutazione del paziente, quindi l'esame clinico è fondamentale. e soprattutto cercare di identificare la presenza appunto dell'artrite. E nell'artrite gioca un ruolo fondamentale il dolore di tipo infiammatorio. Poi ci sono delle condizioni caratteristiche di questi pazienti, per esempio il dito a salsicciotto. Noi definiamo la dattilite come dito a salsicciotto, e il paziente è lui stesso che si accorge che succede qualcosa nel suo corpo. E ovviamente le manifestazioni possono essere quanto mai varie, perché può essere interessata la colonna, possono essere interessate le articolazioni periferiche. Diciamo che queste spie devono portare ovviamente il paziente verso lo specialista, proprio per inquadrare correttamente che quella sia appunto un'artrite. Questo è fondamentale, e quindi ci sarà poi l'ausilio di tutta una serie di esami di laboratorio o esami strumentali, che notate bene, soprattutto gli esami di laboratorio serviranno più per escludere altre artriti più che per confermare la psoriasica. E quindi ancora una volta ancora più importante che sia proprio la valutazione clinica corretta a inquadrare questo tipo di paziente. Per individuarla precocemente, vero professore? Individuarla precocemente, esatto. Grazie professor Spadaro per essere stato con noi, abbiamo aggiunto un tassello al nostro puzzle. Professor Chimenti, parliamo di terapie per le forme lievi e per quelle più gravi. Tra l'altro, come terapia, Alessandro Pellizzari dice tante volte la terapia, tra virgolette, è anche un poter nascondere, no? La malattia, certo. Non so se Mara è d'accordo. Camuffarla. Pensavo alle unghie, per esempio. Prima un'ascoltatrice parlava delle unghie. Ecco, io probabilmente, conoscendo le nostre lettrici, le nostre ascoltatrici, dicono: ma io posso fare la ricostruzione ungueale, posso mettermi le unghie finte, magari peggioro la situazione. Probabilmente, cioè, ci sono delle fasi in cui veramente c'è quasi una routine, come dire, minimale, diciamo, di trucco. In fondo si tratta di trucco, immagino. Professor Chimenti, è possibile? Certo, deve. Dipende dalla fase della malattia, perché se la malattia è in fase attiva, noi andiamo a creare quello che definiamo il cosiddetto fenomeno di Koebner, cioè andiamo a creare una irritazione, e quindi si ha la risultanza di avere un effetto peggiorativo invece che migliorativo. Se invece la malattia è in fase iniziale e in cosiddetta fase di quiescenza, con un camouflage, quindi con la costruzione delle unghie, invece otteniamo un beneficio del quadro clinico, quindi camuffando. Quindi deve essere il dermatologo, di caso in caso, consiglia o meno di fare questa procedura. Professore, invece torniamo ad occuparci della terapia. Per le forme lieve, farmaci topici, trattamenti con luce ultravioletta, farmaci sistemici, però il compito del medico è di trovare la terapia su misura sul paziente, e allo stesso tempo guadagnarsi anche la collaborazione del paziente. Perfetto, vero? Perfetto. Come ha detto lei, giustamente, nelle forme, per esempio, dell'ombelico, ecco, volevo rispondere anche al dottor Confalonieri, più o meno la localizzazione a livello dell'ombelico è in un caso su 6, grosso modo. Ora, in questi casi, chiaramente una crema a base di vitamina D, o ci sono anche delle associazioni adesso, cortisonici e vitamina D all'inizio, e poi soltanto la vitamina D3, può essere, diciamo, una terapia di mantenimento, e poi successivamente una crema idratante possono risolvere il problema. È chiaro che se c'è un coinvolgimento della pelle che è superiore al 10-12% della superficie corporea, bisogna ricorrere invece a terapie sistemiche. Sì. In Italia ce ne sono 3 o 4 tradizionali, quelli che vengono definiti tradizionali, quindi la ciclosporina A, che è probabilmente il farmaco di scelta. Ovviamente è chiaro che varia da caso a caso, ma insomma io parlo in generale. Certo. Poi c'è il metotrexato, poi c'è la luce ultravioletta, e poi c'è il neotigason, che invece è un farmaco riservato, almeno che nella nostra esperienza funziona meglio in queste forme localizzate a livello della pianta della mano, del palmo della mano, della, sì, pianta del piede. Quindi con precise localizzazioni. Esatto. Se questi farmaci, se il paziente non rispondesse ad almeno 2 di questi farmaci, 2 o 3 di questi farmaci, esistono poi i farmaci biologici. I farmaci biologici, una svolta, tra l'altro Star Bene ne parla proprio nel numero in edicola, no? Con un'intervista. Sì. E che, anche perché i farmaci biologici uno pensa subito a cure naturali, no? Mentre sono farmaci che hanno un impatto anche importante sul paziente. Esatto. Quindi possiamo dire i farmaci biologici, soprannominati anche farmaci intelligenti, professor Chimenti, esatto, per le forme, esatto, che non rispondono alle terapie, o per i casi per le forme più gravi. Bravissima, perfetto. Ce ne sono diversi. sì, esiste proprio una specie di regolamentazione in Italia che si chiama progetto PsoCare, dove ogni paziente viene messo in questo progetto, che è una specie di registro osservazionale in cui, dove noi italiani veramente abbiamo fatto da scuola a tutti i colleghi europei che adesso piano piano stanno copiando il nostro modello di lavoro. Guardi quanto siamo bravi. Ogni tanto noi italiani facciamo... No, non ogni tanto, direi spesso. Vorrei dire che mi associo alla consapevolezza a cui faceva riferimento Mara Maccarone, perché spesso direi. Tra l'altro, uno di questi farmaci biologici, il Comitato per i Prodotti Medicinali per Uso Umano dell'Agenzia Europea dei Medicinali, l'EMEA, ha analizzato le informazioni disponibili sulla sicurezza di una molecola, il lefalizumab, e ha concluso che allo stato attuale delle conoscenze i benefici non superano più i rischi. Allora l'EMEA ha raccomandato la sospensione dell'autorizzazione alla commercializzazione di questo prodotto. Noi ne parliamo con il dottor Guido Rasi, direttore dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. Dottore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Dottore, io la ringrazio per essere con noi, perché vorrei che lei ci spiegasse questa raccomandazione dell'EMEA. Come deve essere interpretata dai pazienti che sono in cura con questo farmaco? Per non allarmare, perché non c'è allarme. Ma dai pazienti italiani deve essere interpretata particolarmente bene. Da tutti i pazienti in genere. Intanto è un esempio di grande attenzione che sia l'EMEA e l'AIFA ovviamente hanno messo nel monitorizzare questo farmaco, perché per sole 3 segnalazioni si è arrivata a una decisione rapidissima, sì. Cosa che in passato non eravamo abituati a questa efficienza reattiva delle agenzie. In Italia avevamo, come ha ricordato il professor Chimenti, un ulteriore sistema di sicurezza che è quello fatto proprio da questi registri. L'AIFA li sta usando sia in campo reumatologico, in campo oncologico e anche nel campo della psoriasi, appunto questo progetto PsoCare. Cosa significa? Che noi tutti i pazienti che prendono questo farmaco sono monitorizzati, sono inseriti in questo registro e monitorati. Monitorati in maniera molto stretta ed efficace. Tant'è vero che in Italia non abbiamo nessun caso anomalo di quelli segnalati all'estero, anche perché l'approccio italiano era quello di andare di anno in anno a verificare. Qualche segnalazione di questa precauzione che ha preso l'EMEA era per chi usava questo farmaco per più di 3 anni. E cosa che da noi per ora non può succedere, perché ogni anno si valuta e si decide se continuare o no. In sostanza quindi naturalmente recepiremo la sospensiva che è stata decisa, perché mi sembra cautelativa, e soprattutto alla luce del fatto che esistano anche altri farmaci biologici, quindi per questa terza linea, come ha descritto il professor Chimenti, ancora più attivi, forse anche più attivi per la cura di questa malattia. E quindi tutto sommato non abbiamo nessuna remora a sospenderlo. Sospendere cosa vuol dire? Che c'è tutto il tempo di fare con la massima tranquillità un cambiamento dall'attuale regime terapeutico ad un altro, a quello successivo. E soprattutto, professor, mi scusi, l'ho interrotta, dottor Rasi, ma siamo quasi in chiusura, volevo chiedere al professor Chimenti, soprattutto ci sono delle alternative? Perché volevo dare questa informazione, ma per spegnere i dubbi, raccontare le cose come stanno, perché come sempre l'informazione ci mette anche più tranquilli. Ci sono delle alternative valide? Come ha detto il professor Rasi, il direttore professor Rasi, Le alternative ci sono tranquillamente, e non solo, ma è in uscita, credo 3 o 4 mesi, questo il professor Rasi lo sa meglio di me, è in uscita un ulteriore nuovo farmaco, e quindi i pazienti possono stare tranquillissimi. Come ho detto all'inizio della trasmissione, nel 97% più o meno nella nostra esperienza dei casi, la psoriasi oggi è una malattia curabile. E chiudiamo con questo bel messaggio. Saluto, un saluto collettivo ai miei ospiti, alla dottoressa Maccarone, al professor Sergio Chimenti, al professor Rasi, per essere stati con noi. Grazie anche ad Alessandro Pellizzari. Buona giornata, appuntamento come sempre a domani dopo il GR delle 11:00.